Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Mercoledì 10.30 all'incirca è l'orario con cui inizia una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club e che si preoccupa di farvi ascoltare brani registrati dal vivo di tutte le epoche e quasi tutti i generi. E come sempre anche oggi inizia la trasmissione, una novità che propongo, in ogni trasmissione c'è una novità nuova chiaramente. Oggi è la volta di un album doppio live che si chiama Live from Brooklyn Paramount. È già questo dà una certa indicazione almeno sul luogo in cui sia stato registrato questo album. La band titolare di questo doppio dischetto è in realtà un duo che viene da Austin, Texas. Eric Barton è la voce e Adrian Quesada il chitarrista. Naturalmente poi dal vivo si circondano di tanti altri musicisti. Adrian Quesada è un personaggio molto apprezzato e molto famoso nell'ambito della musica latinoamericana, perché ha fatto parte di un gruppo che si chiamava Gruppo Fantasma, che ha vinto un sacco di premi, ma anche del resto anche i Black Pumas hanno, e questo è il nome della band, forse non l'avevo ancora detto, anche i Black Pumas hanno vinto un sacco di titoli, diciamo così, per quel che contano, naturalmente, come sempre, con due soli album in studio hanno veramente fatto furore, hanno spaccato, come dicono quelli che se ne intendono. Questo Live from Brooklyn Paramount è il loro secondo album live, il primo era praticamente un promozionale ed abbastanza introvabile, se non a prezzi notevoli. È stato registrato naturalmente a New York City, sapete tutti meglio di me che Brooklyn è uno dei cinque grossi agglomerati urbani che formano New York City, e il 30 luglio dello scorso anno, quindi anche questo è abbastanza fresco, contrariamente a quanto succede di solito, nel quale vi propongo riproposizioni, scusate il bisticcio, il gioco di parole, nel quale ci sono riproposizioni di vecchi album o cose del genere. Questo invece è fresco, 30 luglio 2024. Il pezzo che ho scelto per voi, per farvi conoscere, se mai non li conosceste, questi Black Pumas, si chiama Know You Better, appunto, conosciamoci meglio, in pratica, loro sono Black Pumas. All right, let's have a little bit more fun. I know you got it in you. You ready? Yeah. Black Pumas, come on, play that thing. Sing it with me now. One of my favorite parts of the set. So Brooklyn, I said, Brooklyn, don't let me down. You ready? I don't even need the microphone. You ready? Come on. Just a little bit louder, baby.

like this. Just like that. Is that good enough for you, Steve? Si chiamano Black Pumas, i Puma Neri, e questo brano, che è molto sintomatico della loro musica, si chiama Know You Better, fa parte di questo doppio dischetto che si chiama Live from Brooklyn Paramount. In pratica, dopo due soli album in studio, i Black Pumas hanno pubblicato prima un album che, come dicevo, è più che altro un promozionale ed è introvabile, poi più ufficialmente e più commercialmente questo che si chiama Live from Brooklyn Paramount. Brooklyn, che dopo un lunghissimo periodo di oblio negli ultimi anni è risorto, è diventato uno dei migliori quartieri di New York City. I buoni di cuore che seguono la mia trasmissione abbastanza frequentemente sanno che la prima parte della trasmissione è dedicata a un tema che viene dato dalla novità che propongo in tutte le trasmissioni, appunto, e in questo caso Black Pumas mi dava l'opportunità, anzi me ne dava due a dire il vero, una serie di bands con il nome di un animale all'interno, in questo caso, come vi dicevo, Puma, oppure una serie di bands che avevano nel nome Black. Ho scelto questa seconda, quindi ci ascolteremo alcune bands in questa prima parte della trasmissione che hanno all'interno del proprio nome la parola Black, nero. E cominciamo da un paio di gruppi relativamente nuovi, anzi, per quel che riguarda questa trasmissione, che è spesso dedicata a cose dell'altro secolo, direi proprio nuove. La prima arriva da Cambridge, Gran Bretagna, è attiva dal 2018 e si chiama Black Country New Road. Ve l'ho già fatta ascoltare diverse volte e tutte le volte vi dico che quattro giorni prima della pubblicazione del loro secondo album, che si chiama Ants From Up There, il leader e cantante e nonché maggior scrittore di canzoni della band, Isaac Wood, ha abbandonato la band per problemi psichici, diciamo così, e la data di Bologna, che era di pochi giorni, sarebbe stata di pochi giorni successiva, fu cancellata. Abbiamo qui un album che si chiama Live at Bush Hall, che è stato registrato a Londra nell'omonimo locale. Sono tutte canzoni mai pubblicate, che è abbastanza insolito per un album live, ma è capitato a volte, e questa è una di quelle occasioni. È stato registrato il 15 e il 16 dicembre del 2022, ma è stato pubblicato solamente lo scorso anno, solamente in vinile. Poi c'è anche un codice per poterlo scaricare e trasportarlo su CD. Se andiamo ad ascoltare il brano che ho scelto per voi, si chiama Dancers, lo ripeto, loro si chiamano Black Country New Road. Hey. used to choreograph on a computer. The way she talks is done. She's fake in the way she talks to them, and it upsets me. I'm so ashamed, barely recognize her. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. You recognize their faces, but once you think past that, all the elements, well, they're just gone. You recognize their faces, but once you think past that, well, I'm sorry, but they're just gone. The piece that she spoke about was a great piece, but I wanted to rip my ears out. Was a great piece, but I wanted to rip my ears out. She probably spoke of something interesting, but I was so bored, I was so fucking bored. But still they love to laugh it up. I used to know that girl, well, it felt so late. What the hell was she doing? She was demonstrating sounds. Stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand very still on the stage. Dancers stand. I'm still on the stage, not system. I'm still on the stage. You recognize their faces, but once you think past that, all the elements, well, they're just gone. You recognize their faces, but once you think past that, all the elements, well, cause dance system. That I'm just not that saint I'm meant to be. strange fantasy. This is not who you are, not who you want to be, not who I want you to be. You are one so kind. Please remove these thoughts, remove them from your mind. Pray our disgrace to yourself and your family. If not, I'll have to. Do not lie. What a kind reaction. Oh, an eye for eye. And you are just too lazy. It is purely fantasy. It takes so quick. Everyone joins in. And it is condemned. It is a sin. It is a sin. Questi erano i cuginetti dei Black Country New Road che ci siamo ascoltati prima. Si chiamavano Black Midi, un trio che veniva da Londra, hanno fatto la loro carriera dal 2017 allo scorso anno, dove hanno poi comunicato il loro scioglimento. Una band molto, molto particolare, ha fatto 3 soli album in studio e sono un sacco invece di download ufficiali. Anche questo era un download ufficiale, malgrado il forte fruscio che era nella registrazione di questo concerto, che è stato registrato a Los Angeles, allo Zebulon Nights 3, Los Angeles, California naturalmente, e il pezzo si chiama 953. Loro erano Black Midi. Molto velocemente la pubblicità sta incombendo, andiamo a Kingston in Giamaica. Nel 1972 si sono formati questi Black Uhuru, che sono tuttora attivi. Uhuru in lingua swahili significa libertà, e ce l'andiamo ad ascoltare in questo album. Siamo qua nel vinile, che si chiama Turn It Up Live, che è stato registrato attraverso l'Europa in diverse occasioni nel 1981. Ho scelto per voi un brano che è anche il titolo di un bel film, che si chiama Guess Is Coming to Dinner, indovina chi viene a cena, Black Uhuru. Yeah. louder than all. Bless! Bless your mouth, dude! Where's Bessie's instrument? Oh yeah. Chop it up, Ben. Chop it all on out, Ben. Questi raffinati signori erano i Black Grape, una band che viene da Manchester, nata dalle ceneri degli Happy Mondays, una delle famosissime band di quella città. È stata fondata da due ex membri appunto degli Happy Mondays nel 1993 e sono tuttora attivi, anche se ogni tanto si sciolgono, ogni tanto si riformano gli Happy Mondays, insomma è una storia un po' complicata. Questo singolo che ci siamo ascoltati è un singolo che si chiama Kelly Heroes e contiene tre canzoni registrate al Forum di Londra, scusa, stavo per dire Los Angeles, c'è uno anche là di Forum, ma questo è quello di Londra, il 14 ottobre del 1995. Il pezzo forse l'avrete capito, si chiama In the Name of the Father. Una delle peculiarità dei Black Grape è che i due membri fondatori, Sean Ryder, il cantante, e Bez, che è il ballerino della band, appunto ha questa particolarità di avere un ballerino, ma la stessa particolarità ce l'ha la band che ci andiamo ad ascoltare adesso. Non l'ho fatto apposta, me ne sono accorto adesso, perché la band viene dal lontano passato, anche se dopo loro sono formati a Leicester in Gran Bretagna nel 1966 e sono sciolti nel 73, poi si sono riformati per un periodo dal 2007 al 2014. Si chiamavano Black Widow, un gruppo molto dark, molto scuro, e il loro album live, che si chiama Demons of the Night Gathered to See, è stato registrato al Beat Club Show, TV show di Brema in Germania, una trasmissione televisiva. Infatti c'è sia il CD che il DVD allegato che racchiude questa esibizione. Il tutto è stato registrato il 28 maggio del 1970. Ci andiamo ad ascoltare quella che è la canzone più famosa di questa band. Ho detto che era una band molto scura, molto Black Widow del resto, e si chiama Come to the Sabbath. Loro sono, lo ripeto, Black Widow. Yeah. Come to the Sabbath. Questo era facile, dopo un pezzo che si chiama Come to the Sabbath non potevano mancare i Black Sabbath naturalmente. Loro venivano da Birmingham e sono stati attivi dal 1968 al 2017. Past Lives, che è il doppio CD che ci siamo ascoltati, contiene in realtà nel primo dischetto un vecchio album che si chiama Live at Last, che era già uscito in precedenza in forma semi ufficiale. Nel secondo invece ci sono una serie di brani registrati negli anni 70. Questo Paranoid fa parte del primo album Live at Last ed è stato registrato a Rainbow di Londra il 16 marzo del 1973. Velocemente verso la fine, insieme a una grande band, a me piacciono tantissimo, si chiamano Black Rebel Motorcycle Club, e già il nome è fantastico. È un trio che arriva da San Francisco ed è attivo dal 1998, hanno cambiato un paio di volte il batterista, ma il duo chitarra-basso è rimasto inalterato. Hanno fatto 4 album live, fra cui questo che è uscito solo in vinile, che è stato registrato al Levitation Festival, infatti si chiama Live at Levitation, che si tiene ogni anno a Carson Creek, anzi al Carson Creek Ranch di Austin, Texas. In particolare questo album è stato registrato il 26 aprile del 2013 e una versione, quella che ho tra le mani, è stata pubblicata per Record Store Day del 2023. Un classico della loro produzione, un brano che a me piace veramente tanto, si chiama Whatever Happened to My Rock and Roll. Loro sono Black Rebel Motorcycle Club. She's my lady, you're okay. got to kill no cause of mama, I'm so wild, you're heading now, you're the man. Hey! I don't want to be loud in the world, and I'm a man with a brain to stand. You're not, not, not a man, but they can tell I love you better than him. Say my head, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. The ties and love won't free me, but this don't matter to me. Let me light your candle, cause of mama, I'm so wild, you're handling now, yes, I'm around. Kennel calls a mama, I'm so wide your handle now, yes I ran. So go! So what it is? Let's get busy with the man called Izzy. Non potevano mancare naturalmente Black Crowes, miei beniamini personali, anzi. Black Crowes, che ci siamo ascoltati con questa cover di un brano di Otis Redding che si chiama Hard to Handle, che gli ha portato loro tanta fortuna. È stato il loro primo singolo, è stato il loro primo grande successo e tuttora è sempre presente nelle set list dei loro concerti, sempre un gran bel pezzo. Il tutto da questa band, che lo ricordo solamente per chi non lo sapesse, che è stata formata dai fratelli Robinson ad Atlanta nel 1984 ed è tuttora in giro, anche se sono poi sciolti e riformati diverse volte quando i fratelli litigano fra di loro. Shake Your Money Maker Live si chiama questo album, è stato registrato durante il tour mondiale per il 30° anniversario del loro album d'esordio, che si chiamava appunto Shake Your Money Maker. Non ci sono purtroppo notizie né sulla location né sulla data di registrazione, e questo è molto grave da parte dei Black Crowes. Ci sarebbero ancora tantissimi altri gruppi con Black nel nome, magari ci sarà un'altra puntata prossimamente. Far, says a mind. the hall, baby. Keep me parallel on the scene, baby. Parallel on the scene. Cause in life's confines, I've got to try. But never mind how fast you go. We all shine, then burn over like the stars, Brooklyn, in the night. Suitcase a dream, a fortune fly to keep you on the scene, baby. Chevy hits it, that's a hit me. Huh. Seconda parte dell'ultima Città Fujiko Live Club del mese di gennaio 2025, seconda parte che è iniziata come da tradizione con la novità che vi propongo quest'oggi. La novità è quella dei Black Pumas, un duo che la sa veramente lunga, fanno dei pezzi molto belli, molto accattivanti, anche questo molto ruffiano. Credo che si debba pronunciare alla spagnola, si chiama Confines. perché appunto uno di loro, vale a dire il chitarrista nonché leader della band, in pratica dal musicalmente parlando è uno dei massimi esponenti del Latin rock americano, dell'America, degli Stati Uniti d'America del Sud, ecco, per essere più precisi. Il brano che ci siamo ascoltati appunto fa parte del secondo dischetto di questo doppio album che si chiama Live from Brooklyn Paramount, registrato a New York City il 30 luglio dello scorso anno. E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. E quest'anno, con questa settimana, questa trasmissione è un po' latitante per quel che riguarda Recorded Today. C'è un buco clamoroso che è quello degli anni 80, ce ne sono pochissimi nel mio file, ad essere onesti, dei buchi, ma oggi, per quel che riguarda il 29 gennaio negli anni 80, a mio avviso non è stato registrato niente. Se voi invece lo sapete più lunga di me e potete aiutarmi nel trovare qualcosa in questo senso, potete mandarmi un WhatsApp oppure anche telefonare. Il WhatsApp è 333 1809 494, lo ripeto, 333 1809 494. E invece la telefonata è per il 051 34 64 58, 051 34 64 58, se uno sa di qualche registrazione effettuata il 29 gennaio in corso di tutti gli anni 80. Comunque andiamo subito ad iniziare con una cosa veramente notevole, tre personaggi che spero non abbiano bisogno di presentazioni: Lou Reed, John Cale e Nico. I tre hanno fatto parte, per meglio dire, dei Velvet Underground, Nico per veramente poco tempo. Lou Reed e John Cale alternavano grandi cose scritte insieme a grandi litigi, e portarono poi prima all'uscita della band di John Cale e poi definitivamente anche quella di Lou Reed, che praticamente litigava da solo, ma comunque questo è un altro discorso. I tre in occasione di una serie di concerti al Bataclan di Parigi, tristemente famoso, i tre si misero insieme, ci fu una specie di residency di Nico in quel del Bataclan, e in una di queste serate i tre organizzarono un concerto che è stato immortalato in questo dischetto che si chiama Le Bataclan 72, non so dire alla francese, per cui la dico così. E niente, naturalmente loro non potevano fare che pezzi dei Velvet Underground, e questo è uno di quelli, pezzo di Lou Reed naturalmente, che si chiama Heroin. Ok, this song didn't get a spam. On my run, and I feel

and all the dead bodies piled up in mound, and all the politicians making crazy clowns. Oh, while that heroin is in my blood, and that blood is in my head, oh, then thank God that I'm good as dead. And thank God that I'm not aware. And thank God that I just don't care. And I guess I just don't know. And I guess that I just don't know. Brano assolutamente immortale, oserei dire, bellissimo. Si chiama Heroin, uno dei grandi classici usciti dalla penna di Lou Reed, riproposto in questa versione in trio, Lou Reed e John Cale alle chitarre e Nico all'armonium. La voce naturalmente è quella di Lou Reed. Il tutto accadde al Bataclan a Parigi il 29 gennaio del 1972. Come vi dicevo, non c'è niente per quel che riguarda gli anni 80, per cui passiamo direttamente agli anni 90, anzi tardi anni 90, visto che siamo nel 1999. In particolare siamo ad Austin, Texas, per una serie televisiva che si chiama Austin City Limits, serie che poi è diventata anche un festival molto famoso da quelle parti. Fra l'altro Austin City Limits è uno show televisivo che va in onda da 46 anni, scusate se è poco, e propone appunto concerti live delle varie band, dei vari musicisti che passano per la città. Il 29 gennaio del 1999 passava da quelle parti Dave Alvin, grande personaggio californiano, insieme a suo fratello Phil, fondatore dei Blasters nel 1979. Poi lui è uscito per motivi musicali, diciamo. Lui voleva cantare le sue canzoni, visto che era il massimo scrittore della band, e invece il cantante della band era suo fratello Phil, quindi lui decide di andarsene. Ha suonato in una serie di gruppi molto molto temporaneamente molto corto come tempo, diciamo, fra cui gli X e i Knitters. E poi il suo primo album American Music è uscito nei primi anni 80. Fra parentesi, è anche un poeta molto apprezzato, ha pubblicato due libri di poesie che hanno avuto un discreto successo. Ce l'andiamo ad ascoltare con la title track di uno dei suoi album più conosciuti, si chiama Out in California. Scusate, come sempre quando sono indeciso fra due brani, stavo per parlarvi di Out in California, invece ho scelto un altro brano, anche per questioni di tempo, che riguardano la radio. Un giorno farò anche una trasmissione con brani che parlano di radio. Questa parla di una radio di confine, Border Radio, Dave Alvin, 29 gennaio 1999. It's one more midnight and her man is still gone. The nights move too slow. She tries to remember the heat of his touch while listening to the border radio. She calls toll free and requests an old song, something they used to know. She prays to herself that wherever he is, he's listening to the border radio. This song comes from 1962, dedicated to a man who's gone. 50,000 watts out of Mexico, this is the border radio. This is the border radio. Thinks of a son asleep in his room, and how a man won't see him grow. She effects of her life, and she hopes for change while listening to the border radio. Comes from 1962, dedicated to a man who's gone. 50,000 watts out of Mexico. This is the border radio. This is the border radio. Where they play her song. Let your arrow flow straight to my lover's heart for me. And Cupid, please hear my cry, and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Wonders why he had to go. There's one more midnight, and her man is still gone. But she's still listening to the border radio. This song comes from 1962, dedicated to a man who's gone. 50,000 watts out of Mexico. This is the border radio. This is the border radio. This is the border radio. Mai come in questi ultimi tempi si è parlato del confine sud degli Stati Uniti, quello con il Messico, e questa era una radio di confine, appunto, Border Radio, Dave Alvin, Austin City Limits, la trasmissione più, oserei dire, lunga, longeva, del, che io ricordi almeno. Si chiama appunto Live from Austin, Texas, questo album, il pezzo appunto Border Radio, Dave Alvin. Molto velocemente, come al solito parlo troppo, e se andiamo con gli anni 2000, siamo in Norvegia stavolta, ad Oslo, e in scena un grandissimo della musica rock britannica e non solo, Ian Hunter, prima con i Moddy Opal nel 1969-74, anche se lui ha una carriera che parte dagli anni 50, infatti ha anche una certa età. Il suo primo album solo è stato nel 75, ha fatto diversi album live, molti, alcuni dei quali insieme al suo partner, il chitarrista Mick Ronson. Qui invece del chitarrista abbiamo una sezione archi, String Attached si chiama infatti l'album. È stato registrato al Centrum Scene di Oslo, in Norvegia appunto, il 29 gennaio del 2002, con a parte Andy York, un chitarrista britannico, gli altri sono tutti musicisti locali, per meglio dire norvegesi. Ce l'andiamo ad ascoltare, il pezzo che ho scelto per voi forzatamente dato il tempo si chiama Don't Let Go, lui è Mr. Ian Hunter. When your school's shy and the work it ain't easy to find, and it's breaking your heart, 'cause you know you were no good from the start. Don't let go. Time let go. Time let go. Time let go. When you're headed nowhere, when those friends who you relied upon don't care, and your room is a cage, ain't nobody gonna help you ease your rage. Don't look up. Time let go. Time let go. Time let go. And how I know that it's easy to advise, but someone calling, and I feel something falling through the money in your eyes. When all faith is gone and you ain't got the strength to carry on, like a child bathed in need, hide away from the loving that you seek. But don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Grande chitarrista e grande cantante, grande in tutti i sensi, grande personaggio. Si chiama Danny Bryant, un bluesman fantastico che arriva da Royston, nell'Hertfordshire, in Gran Bretagna, e che è stato un paio di volte al Castel San Pietro in Blues Festival, sempre con il suo trio che vedeva suo padre al basso e, fra parentesi, sua moglie che faceva la Rodi delle sue chitarre. E in questo momento, in questi anni invece, lui è costantemente in tour e gira in due versioni, appunto quella trio, suo padre non c'è più perché è morto qualche anno fa, ma continua con un trio, oppure con una big band, che è quella che ci siamo ascoltati, big band con tanto di fiati, come avete sentito. E infatti questo album doppio molto molto bello si chiama Big Live in Europe ed è stato registrato principalmente in Germania, anzi solamente in Germania, in diverse tappe in quella nazione dove lui è veramente molto famoso. È uno di quei personaggi che è più famoso all'estero che in Gran Bretagna, e il suo apice è proprio in Germania. E il brano che ci siamo ascoltati si chiama Just One Burn ed è stato registrato all'Harmony, Harmony in tedesco non so come si pronunci, di Bonn il 29 gennaio del 2017, e concludeva questa monca Record Today di oggi che appunto mancava degli anni 80. A concludere Città Fujiko Live Club, a questo punto ritorna la novità che vi ho proposto quest'oggi. Black Pumas hanno fatto un doppio album live che si chiama Live from Brooklyn Paramount, molto bello, molto coinvolgente, in certi momenti anche molto ballabile. E il tutto è stato registrato appunto al Paramount Theater di Brooklyn, naturalmente New York City, il 30 luglio dello scorso anno, il 30 luglio 2024. Vi lascio in sua compagnia, non prima di avervi ricordato che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live ogni mercoledì dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Appunto, potete ascoltarci anche tramite il web scaricando gratuitamente l'apposita app dal sito radiocittafujiko.it, e recentemente anche in qualche provincia dell'Emilia Romagna anche tramite il DAB. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia dei Black Pumas, ciao a tutti da Nevio. Mirror pushed upon the wall. comes up and the love's on my mind in your neighborhood. You look so good, man.